dietro i monti si è già rifugiato, e le stelle che brillano di già, nella notte la luna spunterà. Dentro i letti, fra i cuscini bianchi, una fiaba ancor che sia piena d'amor, prima di fare sogni d'or. Prepariamo allora una preghiera dentro il